Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Ancora ben trovati da Mirko Cavallin, nuova puntata, la seconda della nuova stagione con il mondo della scuola. E dopo il cappello iniziale della settimana scorsa con Don Edmondo Lanciarotta, entriamo nel mondo delle scuole per l'infanzia, scuole paritarie, che tanto ci sta a cuore, di cui tanto parliamo e di cui volentieri continuiamo a parlare. Lo facciamo col presidente provinciale di Treviso della FISM, Giancarlo Frare, bentornato. Grazie anche agli ascoltatori. Dunque, ci siamo visti poche settimane fa al consueto incontro di inizio anno di formazione per le insegnanti ed è significativo che si fossero entrambi i vescovi, sia quello di Treviso che quello di Vittorio Veneto. Sì, i vescovi stanno manifestando una profonda attenzione nei confronti della scuola paritaria, anche perché a nostro avviso avvertono che la politica non è esattamente così attenta alle nostre problematiche. È fallito l'obiettivo nella cosiddetta revisione della spesa o spending review di ripristinare i fondi. Confidiamo in un ripristino totale dei fondi con la legge sulla, diremmo, la legge finanziaria per il prossimo anno, ma siamo già a ottobre e non abbiamo alcuna voce su questo, e questo ci preoccupa. Di questo poi torneremo a parlare, ma c'è una notizia importante in questi giorni, chi ci ha seguito l'ha anche sentita nei nostri notiziari, notizia che riguarda il contratto delle insegnanti, un accordo che è stato firmato con i sindacati che permette agli insegnanti che erano precari e che non avevano l'abilitazione universitaria di avere davanti 5 anni di tempo per raggiungere questa abilitazione. Sì, questo è un obiettivo che abbiamo ricercato fortemente e innestato su un problema oggettivo che in base a un decreto Fornero ci impediva la riassunzione se non trascorsi almeno 90 giorni dal termine del precedente periodo di lavoro temporaneo. Tradotto, le maestre che avevano terminato a giugno non potevano fino al primo di ottobre essere riassunte quando la scuola inizia ai primi di settembre. Siamo riusciti ad ovviare in base all'interpretazione dell'articolo 11 del contratto nazionale vigente, ma soprattutto in base anche a una disponibilità del sindacato. Noi avevamo sollecitato il nazionale e il nazionale aveva delle difficoltà con la, diremo, con la commissione trattante, perché c'è di mezzo anche un rinnovo nazionale del contratto che scadrà a fine anno. E lo abbiamo fatto su base territoriale, quindi a livello regionale. E per le maestre, per gli insegnanti, insomma, che magari anche loro erano così in bilico, è un passo importante che richiede certamente un impegno poi anche di formazione nei 5 anni, ma anche dà una sicurezza a chi è madre di famiglia, ad esempio. È un passo importante. Noi abbiamo mirato a 2 obiettivi, a quello di mantenere un'occupazione, che è un'azione attenta da parte di tutti i gestori mediamente, perché la professionalità acquisita in questi anni dal personale laico non vogliamo perderla o non vogliamo che venga dispersa, ma soprattutto dare anche la risposta alle famiglie, perché le famiglie aspettavano la ripresa dell'anno scolastico per riaffidare i propri bambini, quindi non avere l'insegnante a settembre poteva anche significare un rinvio della loro presenza. Queste 2 cose sono riuscite a essere ottenute. Sicuramente per il personale è un'apertura importante, cioè il fatto di riconoscere un'esigenza di formazione, perché non ci sono numeri adeguati di personale formato con titolo idoneo, quindi i 60 mesi, cioè il tempo per poter completare gli studi, è una cosa fondamentale. Questo garantisce poi anche le famiglie, nel senso che è anche certificata, sarà anche certificata, cioè non ci saranno più dubbi di eventuali favoritismi nei confronti di alcune maestre che possono essere assunte. Parlo dal punto di vista della scuola pubblica o di gestione statale che qualcuno difende contro la scuola paritaria. Invece non è un contro, ma è... Noi non siamo contro, nel senso che noi abbiamo da 13 anni accettato la parità che ci integra in un sistema nazionale. La collaborazione con Tutti gli organismi delle scuole presenti nella nostra Repubblica, quindi le scuole non sono soltanto quelle statali, ci sono scuole anche comunali, scuole anche di altri enti pubblici che svolgono questo tipo di servizio, e poi ci sono le scuole paritarie, che sono scuole pubbliche gestite da un privato. E su questo la collaborazione che noi abbiamo, visto che nel territorio trevigiano quasi l'80% dei bambini frequenta le scuole di infanzia paritarie, i rapporti con gli istituti comprensivi, quindi con le vecchie scuole elementari, ora scuole primarie, è ottimo, e l'integrazione avviene già da anni. Su questo fronte noi quello che vogliamo è ottenere una pari dignità, che invece è ancora distante. Sicuramente nei fatti la presenza di tanti bambini nelle nostre scuole è una rispondenza anche alla qualità del servizio svolto, quindi noi abbiamo già del personale qualificato. Sicuramente fare questa affermazione non significa dire che siamo arrivati, siamo in un percorso, la formazione è un percorso in divenire, tant'è vero che noi nella nostra territorialità dividiamo in 23 zone la provincia di Treviso. All'interno di queste zone il personale docente e non docente si forma costantemente, scelgono attraverso una, diremo, una valutazione libera i corsi da frequentare, e quindi avviene una formazione continua che in altre realtà non riscontriamo. In altre realtà, non facciamo nomi, si dice il peccato ma non il peccatore. Questa novità contrattuale quante insegnanti riguarda? Beh, questa novità risolve il problema di una sessantina di scuole e un centinaio di insegnanti. In un momento di crisi, soprattutto in un comparto, quello educativo, dove la stragrande maggioranza del personale è presente nelle scuole paritarie, quindi quando parlo di personale, oltre agli insegnanti abbiamo anche, dove ci sono i nidi integrati, le educatrici, ma abbiamo anche il personale che opera all'interno della scuola, come cuoche, inservienti, eccetera, che ovviamente guardano con preoccupazione al futuro, perché se la scuola è sempre a rischio di chiusura, il loro posto è in difficoltà per il mantenimento, e sono tutte donne. Eh sì, questo è un altro problema, è un problema sociale più grande. Hai citato i nidi, tra poco ne parliamo nello specifico. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Luminosità, Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ancora insieme con questa puntata dal mondo della scuola, stiamo parlando nello specifico delle scuole per l'infanzia con Giancarlo Frare, presidente di Treviso della FISM. Abbiamo parlato prima del contratto per gli insegnanti, arriviamo ora a coloro che sono al centro dell'attenzione, cioè i bambini, no? Ora qualche partito si è fatto anche uno slogan molto simile, o il vostro è simile a quello della Lega nello specifico, era prima il Veneto, prima il Nord, è diventato con Maroni, voi avete come fisso prima i bambini. Sì, beh, prima i bambini è una, diremo, un logo antico, fin dall'origine della FISM, quindi non abbiamo nessuna necessità, non lo abbiamo depositato come brevetto. Sicuramente l'attenzione da parte delle nostre scuole è fin dall'origine, quindi molte scuole sono nate come asili già nell'Ottocento, con un'attenzione per i bambini, soprattutto per i bambini dei ceti meno abbienti. Le nostre scuole sono scuole popolari e non sono più scuole da definirsi del prete, sono scuole della comunità, sono la stragrande maggioranza scuole parrocchiali, ma la parrocchia è fatta di una comunità. E quindi noi avvertiamo un amore profondo da parte delle comunità nei confronti della loro scuola. Io ho partecipato a un 60° anniversario di una scuola dove si è visto la presenza di generazioni all'evento, con una presenza anche di storici locali che spiegavano perché era nato e perché c'era questo amore intorno alle loro scuole. Abbiamo, malgrado le difficoltà, scuole che aprono sezioni primavera, dove invece di contraltare presso il Ministero sembra che si stia ventilando la sospensione del finanziamento per le sezioni primavera fino a febbraio del prossimo anno. Poi ci chiedono di essere bravi nella gestione. Un buon amministratore deve avere un bilancio di previsione e soprattutto, una volta che la previsione è certa, anche delle certezze negli introiti. Se questi due elementi non ci sono, è difficile essere bravi amministratori. Per quanto uno sia bravo, appunto, con la pacca sulla spalla. Per chi non è del settore, una sezione primavera cos'è? La sezione primavera è una splendida intuizione che consente in molte realtà che non sono in grado, per i costi e anche soprattutto per tutti i vincoli previsti dalla legge sui nidi, di consentire l'accoglienza di bambini dai 24 ai 36 mesi. Di fatto ci sono molte famiglie che vogliono tenere il bambino fino a quando non ha una certa maturità presso i familiari. Poi, quando comincia a 2 anni a avere una certa autonomia, vorrebbe che accedesse all'impianto scolastico attraverso questa formula. E quindi questo ci consente di avere delle classi abbastanza numerose, si può arrivare fino a 20. Un importo del contributo, perché ahimè le nostre scuole, pur essendo pari alle altre, devono chiedere un contributo alle famiglie, che è sempre crescente, perché lo Stato riduce i propri contributi, quindi abbiamo di fatto dei cittadini di serie B, non delle scuole di serie B, ma abbiamo la possibilità di darlo a una tariffa agevolata rispetto a quelle che sono, ai noi, le tariffe crescenti per gestire i nidi. I nidi invece riguardano quelli proprio più piccoli, l'età, i nidi ai 24. Partono fino ai 36 mesi, ma partono molto prima dall'anno, quindi noi abbiamo queste strutture che però possono accogliere non più di 8 bambini, quindi già dal numero fino a 29 una sezione ordinaria di una scuola d'infanzia, in realtà il numero ottimale dovrebbe essere 25, poi c'è la deroga e quindi il Ministero è maestro nell'inventare le deroghe per le sezioni primavera fino a 20 bambini, per un nido fino a 8 bambini, quindi comprendiamo che un'educatrice proporzionalmente al numero di bambini costa di più. Un tempo i contributi erano molto più importanti e oggi tutto viene scaricato sulle famiglie e noi abbiamo un problema, perché vorremmo rimanere scuole popolari con un servizio accessibile a tutti e questo sempre non è possibile. Dove sono diffuse queste esperienze, cioè i nidi e le primavera? In centri dove la realtà scolastica è anche demografica è più grande, o ci sono esperienze anche in comunità più piccole? Ci sono esperienze in tutto il territorio. Io sono passato qualche giorno fa all'inaugurazione a Casella d'Asolo, che quindi è una frazione del comune di Asolo, dove in una piccola comunità hanno voluto aprire, rispondendo all'esigenza delle famiglie, una sezione primavera, e lo hanno fatto in un momento quasi di festa, cioè non era un momento semplicemente istituzionale, erano presenti i rappresentanti delle amministrazioni comunali, avevano invitato anche il presidente della FISM come rappresentante, perché in realtà era tutto organizzato dalla scuola, un parroco coraggioso e la presenza numerosa dei bambini. Quindi l'importanza anche della sezione primavera è perché, da un punto di vista educativo, prima i bambini iniziano un percorso formativo, soprattutto prima riescono ad accedere a quel grande mondo che è la società. Attraverso un inizio si esce dalla famiglia per entrare nella scuola d'infanzia, in questo caso ancora prima nella sezione primavera abbiamo una potenzialità di crescita migliore, e i frutti si raccolgono quando i ragazzi hanno 17-18 anni. Questa è una statistica e un impegno da parte del Ministero. Il Veneto, grazie alla presenza capillare delle nostre scuole, è quasi vicino allo standard europeo che reclamano per il 2017. Abbiamo già abbiamo già 5 anni di anticipo, quindi il merito va alla bravura degli insegnanti, all'attenzione delle famiglie e forse anche alla capacità dei gestori. I bambini riescono a inserirsi in questo modo per tempo nella scuola. Il tempo ora per noi di un'ultima pausa e poi arriviamo al doloroso ma ancora purtroppo attuale tema dei contributi. Dal mondo della scuola. Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar, running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Oh, I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies have dress full of your quip, and they be screaming out, Louis, love to ask you. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Summer rain game melting pot. Hottest club in the city, and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean cities with the hot mommies screaming, I poppy. Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley, ain't no stopping me. So cash in your dough and flow to this fashion show, pound for pound anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this, and if you ask how I know, I got to plead the fifth. Miami, in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Dancing in the club where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Don't get me wrong, Chi-Town got it going on, and New York is the city that we know don't sleep. And we all know that LA and Philly stay jiggy, but on the sneak, Miami bringing heat for real. Y'all don't understand, I never seen so many Dominican women with sediment tans. Mira, this is the plan, take a walk on the beach, draw a heart in the sand. Give me your hand, damn you look sexy. Let's go to my yacht in the West Keys, ride my jet skis, lounge under the palm trees. Cause you gotta have cheese for the summer house piece on South Beach. Water so clear, you can see to the bottom. $100,000 cars, everybody got them. Ain't no surprise in the club to see Sly Stallone. Miami, my second home. Miami. Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Party in the city where the heat is on. Ultima parte della puntata di oggi dal mondo della scuola con Giancarlo Frare della FISM di Treviso, e tocchiamo ancora una volta il doloroso tema dei contributi statali, regionali, comunali. Andiamo per gradi, anche per chi ci ascolta magari per la prima volta. Sono questi, no, i tre gradi di contributo che arrivano alle scuole paritarie. Partiamo da quello più vicino alla realtà, che è quello comunale, che forse è quello più efficiente e che conosce meglio la situazione e che interviene. Conosco anche sui giornali il caso del comune di Venezia, che in realtà quest'anno ha dato più soldi dell'anno scorso. Allora, le amministrazioni comunali normalmente, mediamente, quindi ci sono sempre le eccezioni, danno con generosità, prima perché sono impresa diretta, conoscono le persone e quindi c'è un'attenzione profonda. E su questo poi abbiamo delle situazioni dispari nel nostro territorio regionale, con punte di eccellenza nel Veronese, dove i contributi sono veramente importanti, e con questo senza sminuire lo sforzo che nel corso degli anni e anche gli amministratori per quello che è l'area trevigiana hanno dato. Ci sono delle oscillazioni mediamente legate e da una parte alle situazioni di bilancio proprie dei comuni, ma dall'altra anche dalla realtà singola della scuola. Le nostre scuole non chiedono se non hanno una effettiva necessità. L'ottimale sarebbe coprire anche la parte che invece viene in crescendo chiesta alle famiglie, perché in una situazione di difficoltà noi abbiamo già registrato, abbiamo fatto una campagna in primavera sul rischio di perdere o di una dispersione di quelle iscrizioni delle famiglie meno abbienti, perché 100, 120, 150, 160 e oltre euro al mese per portare il proprio bambino alla scuola d'infanzia, per qualche famiglia che ha perso l'occupazione o anche semplicemente è in cassa integrazione o ancora non fa più gli straordinari che faceva un tempo, diventa una difficoltà nella quadratura del bilancio. Noi adesso abbiamo invertito i rapporti: se prima il 40% era a carico della famiglia e il 60% era a carico degli enti pubblici, il rapporto si è invertito. Sempre per quantificare, sempre per chi non conosce la materia, uso un termine brutale, ma quanto costa un bambino? Allora, per quanto riguarda il costo del bambino, varia a seconda delle realtà, perché noi abbiamo una varianza a seconda del numero dei bambini presenti in una scuola. Se ce ne sono di più si ammortizza. Esattamente, perché alcune figure tipo la cuoca o l'autista del pulmino, dove è presente l'autista del pulmino, per trasportare 100 bambini, per trasportarne 25 è evidente costa che siamo a rapporti diversi. Sarebbe importante, ed è importante invece, dire quanto viene calando nel corso del tempo l'importo del contributo da parte del Ministero. Se noi facciamo una media per bambino, nel 2009 un bambino costava, o meglio ricevevamo per ogni bambino 566-570 euro per un bambino, poi è scesa a 524 e poi è scesa a 500, quindi il calo è importante, è di oltre il 10% nel giro di poco tempo. Poi, passando invece alla regione, noi abbiamo un intervento della regione che per l'anno corrente è stato importante, perché sono riusciti a trovare dei fondi e portarlo eccezionalmente dai 14,5 ai 17,5 milioni, tradotti in numeri rapportati ai 100.000 bambini che ne hanno beneficiato, la cifra poi risulta modesta. Noi guardiamo invece con attenzione a quello che è il nostro interlocutore principale, colui che diremo come strumento operativo rappresenta il governo, che aveva impostato quella famosa legge sulla parità, cioè il Ministero. E qui le note cominciano a essere dolenti. Prima di passare a questo settore, una nota invece relativa ai nidi. Sui nidi noi abbiamo ottenuto un contributo importante quest'anno, ma è in netto calo rispetto al precedente. Con la regione noi abbiamo una difficoltà a ottenere una rappresentazione esatta di quello che è il servizio delle nostre scuole. Stanno privilegiando, perché la legge lo prevede, altre strutture, quindi i nidi in famiglia, che possono rappresentare un'alternativa forse in termini di costi, ma non come continuità nel servizio. Per quanto riguarda invece lo Stato, confidiamo che la cifra a suo tempo stabilita venga erogata probabilmente per novembre. Quindi nella tempistica noi confidiamo entro fine di ottobre di ricevere il saldo di quello che è all'incirca il 50% del contributo nazionale che avverrà attraverso il Ministero, che nella sua, diremo, gestione burocratica però è abbastanza regolare. Ha diviso in tre tronconi il contributo nel corso dell'anno, che ci consente di respirare. Il grosso, ovvero l'unica tranche dell'altra parte, cioè dell'altra metà, arriverà a novembre, quando avranno completato l'iter burocratico di intesa, firme di ministri, di presidenti di giunte regionali, eccetera, perché 20 regioni sono tante. Noi non comprendiamo se sono solo ragioni di bilancio, perché le nostre scuole fanno risparmiare, le scuole paritarie in Italia fanno risparmiare oltre 3 miliardi. Un buon amministratore che ha un servizio svolto a un costo inferiore dovrebbe agevolarlo, non punirlo. E quindi noi avvertiamo una difficoltà di tipo ideologico nei confronti delle scuole paritarie, che non riescono a togliersi la scorza e l'immagine della scuola confessionale. Le nostre scuole sono scuole pubbliche con organi collegiali previsti dalla legge, rispettiamo un contratto nazionale, rispettiamo tutti i dettami delle leggi della Repubblica. E purtroppo vorremmo essere maggiormente sussidiari nell'intervento per l'educazione, ma questo, c'è una parte della politica che è abbastanza ancora presente, che ostacola questo tipo di progetto, ed è l'unico rammarico. Noi vorremmo che, attraverso un'unione con i sindaci che amano le nostre scuole, ci sia un'azione nei confronti dei nostri rappresentanti parlamentari, affinché, al di là dell'appartenenza, se è vero come è vero nelle pubbliche dichiarazioni che amano le nostre scuole, facciano un passo concreto nel momento della determinazione dell'approvazione del bilancio dello Stato, almeno per questa voce. Il ripristino totale dei 538 milioni, che sconta un'inflazione del 40% da quando è nato, cioè 13 anni fa, e l'importo sarebbe quello stesso. Tenendo conto del risparmio che riescono le nostre scuole a dare allo Stato, potremmo dire che noi la spending review, ancora prima che nascesse, l'avevamo già applicata. Il nostro tempo è corso via, quindi ringraziamo Giancarlo Fra e la FISM. Torneremo a parlare di scuole per l'infanzia nelle prossime puntate. La settimana prossima, sempre a questo, noi invece saliamo di grado, entreremo nella scuola primaria. Grazie per l'attenzione, alla settimana prossima. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.